L'Italia vista dallo spazio di Achille Corea e Fabrizio Intonti. Salve a tutti da Achille Corea, benvenuti. Puntata numero 10 dell'Italia vista dallo spazio. Venerdì 10 agosto, clima un po' vacanziero anche per quelli che continuano a lavorare. Ma oggi proprio per questo faremo una puntata con un argomento un po' più leggero, che però è un attimo che diventa impegnativo, ve lo dico. Perché io oggi vorrei mandare nello spazio una rappresentanza della comicità italiana. Quindi vi chiedo di segnalarci un comico, o meglio ancora una singola scena comica, uno sketch, un monologo, una battuta. Chiamateci per dirci quale pezzo comico mandereste nello spazio all'800240024. Ma prima devo ancora dirvi una cosa. Posto numero 9, in attesa di assegnazione. Sì, perché noi abbiamo ancora aperto, diciamo, lo sportellone numero 9 per infilarci dentro qualcosa in rappresentanza della moda. Io ieri mi sono fidato molto di voi e alla fine avete scelto le scarpe. Mi sono convinto quando ho visto che anche i maschi chiamavano per votare per le scarpe, allora ho capito che possiamo mandare quello in rappresentanza della moda, dello stile, dell'eleganza italiana. E quindi insieme alla nostra teglia di parmigiana alla melanzana, il rumore del motore della 500, un DVD di Amarcord Fellini, una copia della Divina Commedia, Alex Zanardi in persona, la nostra confusione, la pizza, un centrotavola, ci mettiamo anche una scarpa, una sola, dai, c'è la crisi, non pretendete un paio. Posto numero 9, assegnato. Voto Antonio, italiani, elettori, inquilini, coinquilini, casigliani, quando sarete chiamati alle urne per compiere il vostro dovere, ricordatevi un nome solo: Antonio La Trippa, italiano, vota Antonio La Trippa, italiano, vota La Trippa. In molti altri paesi, probabilmente l'idea di scegliere 24 simboli del paese da salvare, da conservare, in cui c'è anche un, mettendo nella lista anche un pezzo comico, potrebbe sembrare anche un pochino strampalata. Secondo me in Italia no, perché comunque la comicità per noi è un'importanza clamorosa, cioè noi consumiamo, produciamo comicità ogni giorno. E secondo me non è strano, perché per motivi anche che suppongo siano venuti in mente un po' a tutti, perché siamo un paese che ha un comico che probabilmente potremmo andare al governo, e ha avuto per anni un governo in cui c'era uno che era bravissimo a raccontare le barzellette, e lo dico senza nessuna ironia. Ma soprattutto, secondo me, dovremmo mettere in questa nostra navicella virtuale un pezzo di comicità, perché la comicità è un nostro prodotto tipico. Noi la produciamo in ogni angolo d'Italia, c'è la scuola romana e ci sono i comici toscani, c'è la comicità milanese, ognuno ha la sua battuta, il suo comico, il suo personaggio di riferimento. E quindi io voglio sapere questo da voi: cosa scegliete, cosa ci mandiamo, cosa racconta e spiega meglio l'Italia? 800240024 o su Facebook, la nostra pagina Italia vista dallo spazio. Io lo chiedo a voi, ma lo chiedo anche ai nostri ospiti. Il primo vive di comicità, sguazza nella comicità, è il conduttore di Colorado su Italia 1, è Paolo Ruffini, benvenuto. Buon pomeriggio, grazie dell'ospitalità e grazie di aver contattato me per questo parere illustre. Insomma. Beh, dobbiamo, perché comunque tu di comici ne vedi passare tanti, anzi grazie, perché suppongo tu stia lavorando alla nuova edizione che parte a settembre. State anche prendendo nuovi comici, ne state vagliando nuove cose? Sì, assolutamente sì, ci saranno tante novità, ci saranno tanti comici nuovi, oltre naturalmente alle grandi conferme del passato. Però io mi ero incuriosito nella descrizione che prima facevi, che è molto bella, no? Della comicità anche come risorsa. Io dall'esperienza che sto vivendo ora, insomma, anche andando in giro, facendo un po' di serate in giro quest'estate, vedevo che contrariamente a tutti i periodi di crisi dove tendenzialmente c'erano, la comicità era una risorsa, era un salvagente, una boa, un oasi di salvataggio, ora in effetti c'è a volte anche un pochino meno voglia di scherzare tra la gente, purtroppo. Però insomma spero che invece la battuta, la comicità e la gag possa ritornare ad essere insomma un ottimo espediente per contrastare qualsiasi tipo di crisi, perché in effetti poi non è una battuta che ridere fa bene alla salute, lo dico sempre io in trasmissione ed è una verità, no? Sì, è una poi cosa se che diciamo che noi abbiamo prodotto grande comicità nel dopoguerra, insomma la nostra situazione al momento è un po' grave, però forse se ce l'hanno fatta quelli ce la possiamo fare anche noi. Beh, giustamente sì. Alla grande, direi assolutamente di sì, però era soltanto una riflessione, ecco, non voleva essere pessimistica, era soltanto una piccola riflessione dove vedo tanto nervosismo a giro e tanta, no, e tanto scoraggiamento, invece no, cerchiamo nel nostro piccolo di continuare a fare scherzi, di fare battute, chi può giustamente, però insomma immagino che giustamente ci siano ancora delle persone sono molto arrabbiate perché hanno da fare conti tutti i giorni con delle situazioni difficili. Senti Paolo, voi non fate diciamo satira politica, che è diciamo la prima cosa che viene in mente quando si dice la comicità che racconta il paese, però secondo te nei comici di Colorado, nei vostri sketch, diciamo si vede insomma un ritratto del paese, di quello che è l'Italia in questo momento? Ma guarda, la cosa, secondo me ci sono, noi in effetti facciamo una comicità un po' diversa perché è spostata a volte anche più su quelle battute ancora più semplici, quelle, noi per esempio abbiamo un grosso seguito da parte dei bambini, da parte dei ragazzini, quindi sono battute un po' evergreen, un po' sullo scherzo, sulla goliardia, sulla battuta, sullo slapstick anche per certi aspetti, quindi cadute, botte, cose del genere, quindi non ci addentriamo molto nella politica, però sai, lì dipende anche un pochettino da dove vuoi andare a parare. Io credo che Colorado possa essere lo specchio del momento, nella misura in cui è sempre una necessità a ridere, e comunque fermandomi per la strada una miscellanea di persone estremamente variegata, che va veramente dal bambino di 7 anni al cinquantenne o al nonno che magari lo vede con nipote, questo insomma è sempre una cosa che ti lusinga, perché nei momenti in cui fai un intrattenimento popolare capisci che il termine nazionale popolare c'ha sempre un'accezione positiva nella misura in cui riesce ad agglomerare gente, quindi sai, è un pochino come quando dicevano, io ho fatto anche Cinepanettoni, quando dicevano che Cinepanettone era lo specchio del sociale, in realtà il Cinepanettone ha sempre sfottuto un po' un certo tipo di classe sociale, la media borghesia, oppure il milanese arricchito piuttosto che il romano cafone che aveva un sacco di soldi. Quindi nel momento in cui insomma noi viviamo e facciamo delle battute circostanziali al momento, allora sì, diventa specchio comico dell'Italia che c'è. Senti Paolo, cosa dici, visto che parliamo proprio di unire l'Italia e le varie classi sociali, cosa hai scelto tu come rappresentanza dell'Italia? Qual è la scena comica, il momento comico che hai scelto per noi? Ma è una scena che amo moltissimo, che mi garba molto, di un autore che ritengo insomma per la mia generazione, insomma ora non vorrei fare i paragoni illustri, però insomma è un romano, è Carlo Verdone, che io adoro profondamente, e Bianco, Rosso e Verdone, un film del 1981-82 mi sembra, c'era questo viaggio che veniva effettuato da 3 personaggi chiave, no? Di cui uno era un pugliese, credo comunque un meridionale che viveva all'estero, e che parlavano un idioma più o meno incomprensibile, doveva tornare a casa sua a votare, e durante questo viaggio gliene combinano di tutti i olori, perché insomma gli forano la macchina, gli rubano le ruote, poi gli rubano, insomma compie veramente un viaggio intorno ad un'Italia piuttosto disastrata. Mi ricordo una scena bellissima di lui che non riesce ad attraversare la sua strada, una scena molto bella, e alla fine lui col suo idioma un po' strambo fa un discorso interminabile, lunghissimo, e prima di mettere il suo voto nell'urna dice soltanto una cosa comprensibile all'interno di tutto il film, che è ma vaffanculo. E quella cosa è liberatoria, sì, è liberatoria, sì. Paolo, la sentiamo, la facciamo sentire ai nostri ascoltatori. Grazie per essere stato con noi, per la tua scelta. In bocca al lupo per la nuova edizione di Colorado. Finita a voi per la compagnia e per tutto. Un abbraccio, buon pomeriggio. Io volevo soltanto una cosa, io non ero in Germania, mi ci sono un buccio di buchi di papi, ho detto un po', ah io ci sono e parte di Germania, quello ci sono è arrivato un premio, c'è delle cose, alla radio qui cassette, dietro, arrivare il giorno, io non ho vieto, arrivare le cose, io volevo, usa di l'andello, eccetera, vabbè, un parapresso, io ricordo che di terzo che stavo, io non lo guardavo, a poco siamo io, che invece altri bugiamo fabbri, io non dicevo, non ero disgraziato, che non volevo dire niente, no, allora c'è potuto dire, ci sono tutti, no, io ci sono fortunato, eccetera, allora mi scomodo, non mi potete fare niente, eccetera, sapete che vi dico, che andate a pia tutte quante nel culo, va bene? Ed eccola la scena che citava Paolo Ruffini. Voglio sentire un paio di ascoltatori all'800-24-24. Chiedo sintesi perché oggi siamo belli carichi. Pietro da Palermo, benvenuto. Buongiorno, buonasera. Anzi. Qual è la scena? Beh, è cominciato con Totò. Beh, la scena madre di Totò è Totò Peppino, la mala femmina, con lo sfondo il Duomo di Milano, e loro due si presentano davanti al vigile chiedendo l'indirizzo. Il vigile che fa seghe. La sentiamo, Pietro. Grazie per aver scelto. Eccola qua. Bitticen. Noio. Volevon savoir. Noio volevon savoir l'indirizzo. Ma bisogna che parliate l'italiano, perché io non vi capisco. Chi è che non sa a memoria questa scena da Roma a Milano, da Napoli a Treviso? Chi è che non sa questo pezzo di Totò, che è un pezzo classico? Però io vorrei parlare anche di comicità, magari di altri tipi di comicità più nuova, di comicità, non lo so, se esiste una comicità femminile. Io lo chiederei alla nostra prossima ospite, che è un'attrice di satira, ha lavorato per Cuore, ha scritto per la televisione, ha scritto libri, e Lia Celi, benvenuta. Ciao, buongiorno a tutti. Insomma, la comicità femminile, guarda, mi prendi subito su un argomento su cui sono abbastanza sensibile, perché secondo me le leggi della comicità e della satira, dell'umorismo, sono come le formule della matematica, non hanno sesso. Poi la comicità o fa ridere o non fa ridere, insomma, non esiste sesso, ma solo effetto, insomma, bontà o meno della battuta o dell'effetto, insomma. Senti, tu sei molto attiva su Twitter in questo periodo. Sì, infatti, ci seguiamo. Sì. E pensi che diciamo l'umorismo degli italiani si sia un po' spostato su internet? Guarda, sì, anche perché mi sembra di capire che sugli altri media i posti sono già tutti presi e nessuno ha intenzione di mollarli, cioè ci sono delle celebrità che presidiano anche valorosamente le loro posizioni, e al di là forse anche del reale gradimento e desiderio del pubblico. Secondo me su internet, anche come autoproduzioni per esempio, che poi vanno a finire su YouTube, o comunque la rete sta sviluppando meritocraticamente un sacco di talenti che crescono grazie al gradimento del pubblico reale, proprio, non grazie a spintarelle o amicizie. Quella grande risorsa della rete, cioè la sua meritocrazia, la giustizia. Esiste una giustizia a questo mondo? Non lo so, però sulla rete sì, perché follower chi è bravo, su follower, like su like, si costretti mastoncini. Senti, mi conta proprio quello che vali. Senti, sempre prendo dal tuo profilo su Twitter, perché questa è una domanda che ti voglio fare. Tu hai scritto nella tua breve biografia: ogni tanto faccio battute su morte e malacci vari, follower avvisato. Secondo te siamo diventati un popolo permaloso che non accetta l'umorismo su certe cose? Sì, diciamo che io non ho mai capito se si tratta di scaramanzia, cioè meglio non parlare di certe cose, oppure questo senso di malinteso senso del politicamente corretto, perché in realtà sulla morte, sulle cose brutte si è sempre scherzato, sono sempre state una grande risorsa reciproca, cioè le cose brutte hanno sempre dato materia all'umorismo, e l'umorismo ha sempre aiutato a superare e a vincere i momenti brutti, no? Però mi richiede una forza d'animo che oggi viene confusa con la durezza, ecco, con la spietatezza, cosa che in realtà non è. Io perciò appunto metto in guardia i miei follower, perché a volte non ci si arriva. Fra l'altro mancano quei tipi di mezzi di comunicazione e diffusione dell'umorismo un po' serio, un po' duro, come potevano essere appunto i giornali di satira come Il Male, come Cuore, come Tango, tutto molto edulcorato. Perciò penso che il pubblico abbia proprio perso la capacità di decifrare il linguaggio comico anche quando affronta dei problemi seri, quindi scambia appunto l'ironia per compiacimento, per crudeltà, ecco. Speriamo che con internet si riprenda. Qui ci sarebbe da fare il discorso su cosa si può fare satira, cosa no. Io non lo voglio fare, è proprio una mia decisione, perché sennò non ne usciamo più. E quindi ti chiedo: qual è la tua scelta? Qual è la scena comica che hai scelto per noi? Allora, io sono una... No, guarda, se dovessi proprio veramente mandare qualcosa di comicità italiana sullo spazio, manderei Fantozzi Villaggio, ecco, perché secondo me, ecco, oggi è stato citato Totò, per esempio. Totò, come anche Benigni, fanno riferimento a un tipo di comicità pre-industriale, pre-moderna, come dire, no? Che c'è sempre questa a metà tra l'aristocratico e il contadino, mentre invece Villaggio è forse l'unico che ha saputo descrivere l'italiano nella società industriale, nella società dei consumi, no? Perciò questo lo rende ancora molto moderno e molto attuale, continuamente citato, e continua a parlare al nostro cuore. Sì, è lui, diciamo, è l'idolo degli impiegati e del terziario. Grazie Riacelli. Dunque canottiamo la voce. Molletta, molletta, patata, apra la bocca. Oh, imbuto, imbuto, imbuto. Lo regga. Asciugamano. Questa non abbiamo tempo di ascoltare la prima alla fine, ma è la mitica scena di Fantozzi in cui lui cerca di camuffare la voce nei mezzi più improbabili e poi alla fine viene riconosciuto appena dice pronto. Questa era la scelta di Lia Celi. Aspettiamo le vostre all'800240024. Ci sono anche parecchi sms al 349-238-6666. Li leggo tra pochissimo, perché prima ho il piacere di avere al telefono uno dei comici di maggior successo degli ultimi anni, Max Giusti, benvenuto. Ciao, buon pomeriggio a te, mi è venuto un po' d'ansia con la viabilità, perché io mi sono spostato da Roma, dove sono con lo spettacolo, per raggiungere i miei a 140 chilometri, i miei figli. Ma tu devi tornare, paura. Stasera ti aspettano all'ombra del Colosseo. No, torno, però la viabilità mi ha fatto ricordare che è l'11 agosto, quando sei in tournée, 10 agosto, quando sei in tournée dimentichi i giorni, venerdì, sabato, partenza, un po' di terrore. Comunque sono in una secca, con i piedi la classica secca dove si va a fare il bagno il pomeriggio al mare. Bellissimo, complimenti a te. Comunque diciamo a quelli che ti verranno a vedere questa sera all'ombra del Colosseo, se arriva 2 minuti in ritardo, state tranquilli, sta arrivando comunque. Sta arrivando, cioè... sappiamo, ma arriverò puntuale. Arrivo, dovrei trovare traffico nell'altro senso, spero. Max, senti, intanto ti volevo chiedere se secondo te qual è il tipo di comicità che in questo momento rappresenta di più l'Italia. Sai, ci sarà la satira politica, comunque la satira di costume, la battuta secca. Tu... Ma guarda, la satira di costume diventa comunque per forza satira politica di suo, perché poi la società è politica. Mi veniva in mente proprio quando con l'argomento della tua puntata, insomma, un po' i tartassati quest'estate, ci sta bene, ricordi il film, no? Quello con Totò e Fabrizi. Allora, se vado a memoria, credo Fabrizi fosse uno della finanza, della guardia di finanza. Bravo. E Totò. Totò era il commerciante d'abbigliamento, il cavalier Cocozza. Sì, sì, esattamente. E quindi credo fosse cavalier Cocozza. Insomma, tu lui vai lì e fa di tutto. C'è la scena dove lui cerca di essere amico del finanziere andando a condividere l'hobby, che era la caccia. E lui si presenta da cacciatore, dice, quando gli dice, non si dice buon ragazzo, dice in bocca al lupo, lui gli risponde, ah, è luparo, io credo che quella battuta lì valga. Max, al di là della grandezza di quei personaggi che erano veramente meravigliosi, cioè, ancora ci rappresenta quella comicità ormai di 50 anni fa, c'è ancora... Purtroppo ci rappresenta dalla mia generazione in poi, perché abbiamo rubato selvaggiamente da tutto quella che era quell'atmosfera, ma era un'Italia molto più semplice, adesso è un'Italia diversa, è un'Italia l'Italia governata da un banchiere, prima eravamo governati da un imprenditore, e la politica intanto vacilla e cerca veramente, guarda, questo paese è secondo me la più grande fabbrica di qualunquismo che ci sia, cioè chi vive in Italia con le più grandi speranze al 70%, dopo i 35 anni cade nel qualunquismo più totale, proprio, veramente, non perdi tutto, non credi più in nulla. Cerchiamo di salvarci un po' anche mandando questi grandi, questi mostri sacri della comicità in giro, a ricordarci come eravamo. La battuta secca, guarda, a me piace molto quando parlo un po', no, insomma, dell'esempio che dà Mario Monti ai nostri giovani, no? Cioè, Mario Monti è quello che fa Roma-Milano in treno, e quelli di prima lo facevano con l'aereo privato e il cantante, così. Però Mario Monti è pure triste come premier. Quello è uno che alle 7 del mattino va a messa con la moglie, quelli di prima alle 7 del mattino, insomma, rassettavano dopo il bunga bunga, quindi, cioè, alla fine era meglio prima, almeno c'era questo senso, no, di finta ricchezza. Ma poi per i comici di sicuro. Però il problema è che adesso è in chiesa, a messa, Mario Monti non lo vogliono più. Perché? Perché non va alla funzione, ma sembra vada a prendere le misure in queste chiese, va col mare tranquillo, quindi è un po' questa. Le misure, diciamo, per l'IMU. Sì, diciamoci, far satira politica è la cosa che è mancata negli ultimi anni. La satira politica è mancata molto, io nei miei spettacoli dal vivo cerco di portarla, perché sono un cittadino, perché sono un contribuente, perché sono uno che si sente ancora parte di qualcosa, e la satira politica secondo me è una cosa che ci deve essere. Poi certo, la satira politica dà luogo, no, a movimenti politici. Io ricordo un grande Beppe Grillo, ricordo... Sì. Guarda, ti faccio l'ultima domanda. Tu ci assicuri che non scendi in politica? Salutaci così, ci assicuri? Io vi posso dire dormite sonni tranquilli, perché forse state parlando con l'unico che potrebbe veramente scrivere la parola fine a quello del nostro paese, del trasferimento in politica. Max Giusti, grazie per essere stato con noi stasera all'Opera del Colosseo, grazie. Anche domani, ciao Achille. Ciao. E allora questo biglietto è validissimo. Effettivamente noi pratichiamo lo sconto del 75% su bassa scala, prego. E niente, torna Totò. Guardate, non sapete quanti voti ci sono per Totò, cioè quanti voti davvero abbiamo per il Cavalier Pezzella, ci dicono che è nei tartassati, ci correggono giustamente, e poi citiamo anche un po' di altri voti, ma fatemi andare intanto con un ascoltatore che ci aspetta da un po', che è Fabrizio da Roma, benvenuto. Sì, buon pomeriggio a tutti. Fabrizio, la tua scelta? La mia scelta ricade su un film di Mario Monicelli, Il Marchese del Grillo. Perché? Perché c'è il pezzo epico quando alla fine di una rissa dovuta a gioco di carte viene portato via, vengono arrestati tutti, mentre viene rilasciato il Marchese del Grillo, cioè Alberto Sordi, e quando sale in carrozza dice: mi dispiace, ma io sono io e voi non siete... eccetera. Eh sì, grazie Fabrizio, quella è una scena molto italiana, direbbero in Boris, per citare un'altra sitcom più moderna. Thomas da Treviso, benvenuto. Sì, ciao. Qual è la tua scelta? Per me Massimo Troisi e Roberto Benigni, Non c'è se che piangere. In realtà la scena è il passaggio al ponte per il pagamento del dazio in Fiorino, perché rappresenta veramente quello che in parte è anche l'Italia, cioè un'Italia che non ti ascolta e che ti fa ritrovare a domandare 100 volte le stesse cose. Grazie, una metafora della burocrazia. Thomas, lo facciamo sentire un pezzetto. Chi siete? Siamo due che... Cosa fate? Cosa portate? Niente, roba... Sì, ma quanti siete? Due, siamo io e lui, dietro non c'è... Un fiorino! Beh, se non è simbolica una scena in cui uno parla e non ascolta e si seguono domande su domande. Vorrei fare, se avessi tempo, ma non ce l'ho, un confronto tra questa scena qua e il Dica un attimo sono subito da lei dei Soliti Idioti, cioè la burocrazia con 40 anni in mezzo. L'ultimo ospite di quest'oggi, poi comunque insomma qui ci sono voti su voti, è noto perché è un autore televisivo, collabora con molti comici, ma è noto anche perché è insieme ad Alessandro Bonino ha creato un fenomeno della comicità e di internet, che è il sito spinoza.it. Benvenuto a Stefano Andreoli. Ciao a tutti, grazie mille dell'invito. Come potevamo non invitarti, visto che comunque voi siete stati, diciamo, la porta di accesso di tantissimi nuovi battutisti, diciamo autori che su internet hanno trovato modo di commentare l'attualità con una marea di battute. Diciamo che forse siamo pentiti, perché il giocattolo ci è esploso in mano, ora tantissimi fanno battute su internet, quindi ci piace essere quelli che hanno aperto la strada, diciamo così. Sì, è chiaro, non abbiamo inventato la battuta, ma ora grazie a Facebook, a Twitter, a tutti questi modi di condividere, è tutto diventato più facile e veloce. Io non l'avete inventata, però ormai sento tantissimo che quando qualcuno fa una battuta secca, qualcuno dice: ah, questa è un po' la Spinoza, quindi siete diventati una cifra. Un brand, come sì, si dice. Un brand, come dicono quelli bravi, sì. Esatto. Senti, io... devo chiederti di scegliere, c'è da dire che voi tanto scegliete quotidianamente, perché so che avete una marea di battute nel forum, le scegliete per il sito, poi le scegliete per i libri, come nell'ultimo qualcosa di completamente diverso, quindi siete già abituati a passare da migliaia di battute a molto poche selezionate. Ti devo chiedere qual è la battuta, cioè la scena comica che tu manderesti nello spazio. Ce ne sarebbero state tante, ho pensato a Corrado Guzzanti quando interpretava Emilio Fede, una pietra miliare, ho pensato anche al Tremonti di Guzzanti, che è uno dei miei preferiti. Ho scelto però uno sketch di Roberto Benigni con Pippo Baudo del 94. Era stato eletto da pochi mesi Berlusconi e Benigni fa finta di essere, diciamo, arrivato dall'estero, di non sapere cosa è successo negli ultimi mesi, e chiede con molto candore, ma senza mai nominare Berlusconi che fine abbia fatto quel tizio di Milano pieno di debiti, nei guai fino al collo. E Baudo, intimidito, gli risponde che costui è diventato Presidente del Consiglio. È una bellissima scena, secondo me, perché proprio approccia il grottesco, il surreale di quella situazione senza mai doverla esporre, ma solo con delle domande. La facciamo ascoltare. Grazie Stefano Andreoli per essere stato con noi. Grazie a voi, un abbraccio. Poi c'era, durante le elezioni, c'era presentato quello là di Milano, ricco, come si chiama? C'era uno che aveva quella frase, dice: sono sceso in campo, quello voleva scendere in campo, no? Chi è? Non, voleva presentare uno che aveva messo su un partito 2 o 3 ore con amici sua, su cugina, su sorella, si è... e ha detto... Oh! Questa è la scena che citava Stefano Andreoli. Guardate, oggi siamo veramente molti voti, quindi ve ne cito alcuni prima di chiudere. Allora, Walter Chiari nella scena del Sarchiapone ha tantissimi voti, li ricorderete. Alberto Sordi che divora il piatto di spaghetti, ma non erano spaghetti perché era maccherone, tu mi hai provocato e io me te magno. Amici miei, ovviamente la supercazzola. Il vigile, sempre di Alberto Sordi. Troisi, molte citazioni, Troisi e Lorena in annunciazione. Insomma, abbiamo prodotto tanta comicità e oggi io vi dico, siamo fortunati perché avete tutto il weekend. Oggi è venerdì, noi il voto lo chiudiamo lunedì alle 16, quindi su Facebook, su Twitter, via mail scatenateci, e tutti i voti che avete mandato sono ovviamente validi, però avete ancora 2 giorni abbondanti di tempo per scegliere qualcosa. Grazie ad Alessandro Cappini per la parte tecnica, grazie a Tonella Migliaccio, grazie a voi da Achille Corea, ci sentiamo lunedì. Posto numero 10, in attesa di assegnazione. Inviate messaggi e preferenze a Italia Vista dallo Spazio @radio24.it.